E lascia che il tempo abbia la sua parte e tieni il passo più sicuro. Metti coraggio e buone scarpe, prendi la strada che non fa nessuno. E per la via rancore e pentimento, tutto il clamore che la vita fa, ogni promessa e giuramento, debito e lealtà. Ce n'è bellezza, guarda bene, anche se a volte non si fa vedere. Prima del viaggio l'ultima carezza di chi resta. Ogni parola fa silenzio.